Giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. L'interrogativo è quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia. C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione. Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della verità come strumento che crea libertà. Sono le idee di Walter Tobagni, giornalista del Corriere della Sera, ucciso dai terroristi della Brigata 28 marzo a Milano, il 28 maggio del 1980. Lui, che poco prima di morire comprende le modalità e comportamenti dei giovani militanti della lotta armata e studia attentamente i loro documenti, alla fine le sue analisi si rivelano le più lucide degli anni 70. Walter Tobagi nasce il 18 marzo del 47 a San Brizio, in Umbria. La sua famiglia si trasferisce a Milano. Al liceo Parini diventa redattore del giornale La Zanzara, diventato celebre per un processo provocato da un articolo su sesso e giovani. Dopo la fase del liceo, Tobagi entra giovanissimo nella redazione dell'Avanti e poi passa al quotidiano cattolico L'Avvenire. Viene assunto al Corriere di Informazione e al Corriere della Sera. Nei giorni drammatici del sequestro Moro segue ogni fase della mancata trattativa e dei colpi di scena, valorizza ogni spiraglio che possa contribuire a salvare la vita del presidente della DC. Si impegna poi nel sindacato e viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti. Scrive in quei giorni Walter Tobagi: la sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose e la famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi che non 3 mesi fa. E tenendo conto di un altro fattore decisivo, l'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata. Sono emerse falle, debolezze, e forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascono non dalla paura, quanto da dissensi interni sull'organizzazione e sulla linea del partito armato. Gli agguati e i ferimenti proseguono intanto senza sosta. In un pezzo del Corriere, Vivere e morire da giudice a Milano, Walter Tobagi racconta la storia di Emilio Alessandrini, 39 anni, sostituto procuratore della Repubblica, è assassinato in un agguato da prima linea. Un magistrato impegnato nelle indagini sui gruppi della destra eversiva e sul terrorismo di sinistra. Anche Alessandrini è un personaggio simbolo, lo scrive Tobagi, perché rappresenta quella fascia di giudici progressisti ma intransigenti, né laici chiacchieroni né colombe arrendevoli, e osserva che i terroristi prendono di mira soprattutto i riformisti, ma non solo, dei samurai invincibili. Per quegli articoli entra nel mirino dei terroristi e gli investigatori trovano un appunto in una borsa lasciata a Milano, in via Lombardia. Benedetta Tobagi legge ciò che suo padre, Walter, scrive poco dopo quel fatto. Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno, e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi piacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa. 27 maggio 1980, è il giorno prima dell'omicidio. Walter Tobagi parla ad un dibattito al Circolo della Stampa di Milano. Il tema è terrorismo e informazione. Avviene dopo il caso del giornalista del Messaggero Fabio Isman, arrestato per aver pubblicato i verbali segretati del pentito delle biere, Patrizio Pecci. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi, vabbè, le cose vanno avanti prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta. E alla fine è toccato proprio a Walter Tobagi, poche ore dopo questa frase. Alle 11.10 del 28 maggio 1980, sei colpi di pistola fermano il cammino del giornalista. Così i colleghi della RAI annunciano la sua morte. Terrorismo, mattinata di barbarie e dolore. A Milano è stato assassinato Walter Tobagi, del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Walter Tobagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo, da posizioni di estremo coraggio. Con onestà aveva cercato in tutti i suoi scritti, nei suoi discorsi, di scrutare le remote radici della violenza. Poco dopo giunge la rivendicazione. È un documento complesso e articolato. I killer del giornalista spendono almeno 3 pagine per spiegare il difficile passaggio alle nuove tecnologie, ai computer. Ma il ragionamento è anomalo, schizofrenico. Perché? Perché dopo quelle 3 pagine gli assassini estendono insulti e minacce a tutta la categoria. Armando Spataro è uno dei primi investigatori che si occupano dell'omicidio di Walter Tobagi. L'omicidio Tobagi fu rivendicato da una brigata 28 marzo. Qualcuno pensò che fosse una sigla delle Brigate Rosse, in realtà tra gli addetti ai lavori, io tra quelli, la convinzione era invece che si trattasse di un gruppo diverso delle BR che magari aspirava con quella firma ad accreditarsi presso le BR. È il 25 settembre 1980. Un blitz dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa porta in carcere a Milano i killer di Walter Tobagi. Sono tutti giovanissimi. Tra loro c'è Marco Barbone, Manfredi De Stefano, Francesco Giordano e ancora Daniele Laus, Mario Marano, Paolo Morandini, Rocco Ricciardi. Alcuni di loro avevano fatto parte delle formazioni comuniste combattenti e Guerriglia Rossa e avevano ferito poco prima nella sua abitazione il giornalista di Repubblica Guido Passalacqua. Il primo marzo dell'83 a Milano inizia il processo e gli imputati sono accusati di essere terroristi della brigata 28 marzo e autori materiali dell'omicidio Tobagi. Mario Marano, ascoltate, davanti ai giudici del processo Tobagi, spiega gli ultimi istanti del giornalista del Corriere della Sera. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe. In quel frangente che Barbone mi dice spara, spara. Ed esplodo 3 colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento fa per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Nel quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo. Il 27 maggio 1983, Bettino Craxi, allora segretario del PSI, rivela che le forze dell'ordine fin dal dicembre del 79 sapevano di un imminente attentato contro Tobagi. Il 28 novembre dell'83 giunge la sentenza. Alcuni imputati vengono assolti, le condanne sono molto miti. Barbone e Morandini, che si sono dissociati, escono dal carcere dopo 3 anni di prigione. Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascritti. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e per contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario, Mazzolo Inverno, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio della libertà provvisoria. L'ultimo mistero riguarda la mancata protezione attribuita a Walter Tobagi. Durante il processo Craxi rivela che dal dicembre del 79 un confidente dei carabinieri, Ricciardi, preannuncia un attentato contro il giornalista, ma Tobagi non accetta alcuna tutela. Per gli investigatori ormai è tutto chiaro. E Stella Tobagi, 24 anni, sono ancora pochi per la verità.